se allo zoo di 105 gente normale, un gruppo di coloidi talmente geniale. Se allo zoo di 105 gente animale, niente più eccitante dello show che non piace. Il programma che non piace. Che non piace. Abbiamo dato vita a una puntata straordinaria.